L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Tante cose sono successe in questa settimana a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, persino troppe, non credo che riusciremo a raccontarle tutte in questa ora di trasmissione. Così alla rinfusa mi vengono in mente il G20 in Canada, la sentenza dell'Utri, poi c'è stata la tragica, assurda morte di Taricone, e per tornare alla politica italiana la situazione è sempre incandescente invece nel nostro Parlamento, tra emendamenti alla manovra, federalismo demaniale e fiscale, legge sulle intercettazioni. Berlusconi è stato in Brasile dove si è districato tra battute su donne e musica napoletana, bionde più o meno misteriose che lo hanno seguito dall'Italia e poi naturalmente ha firmato importanti accordi. E poi ancora il calcio con Prandelli, nuovo CT italiano, mentre Domenech, l'ormai dimissionario fallimentare allenatore francese, addirittura finito davanti ad una commissione parlamentare, forse un po' troppo. Voglio però iniziare da due notizie forse minori, ma su cui invito ognuno di voi a fermarsi, a riflettere e poi naturalmente a tirare liberamente le proprie conclusioni. La prima notizia fotografa un dato di fatto del nostro paese, piaccia o non piaccia. La seconda invece ritrae, se vogliamo, una moda, un costume della politica, ma forse anche dell'intera società italiana. Mi riferisco alla tendenza piuttosto fastidiosa a fare i moralisti più accaniti in pubblico contro vizi che poi magari con la stessa pertinacia si praticano dentro le mura domestiche. E allora via con le voci di Sergio Nava e Maria Piera Ceci dai GR di martedì e ieri mattina. In un paese dove le opinioni paiono spesso surclassare i fatti, sono sempre fortunatamente i dati, quelli veri e certificati, ad aiutarci a comprendere la realtà. Quelli diffusi ieri relativi alla pressione fiscale in Italia raccontano una verità scomoda. Il bel paese è una delle nazioni più tassate d'Europa ed è il paese dove la tassazione sul lavoro dipendente risulta la più alta nel vecchio continente. Strano destino quello di un decennio apertosi 9 anni or sono con la celebre promessa stampata su maxi manifesti elettorali accanto al volto dell'attuale premier Silvio Berlusconi: meno tasse per tutti. La chiusura di questi anni zero, dati Istat e Commissione Europea alla mano, afferma che l'Italia lo scorso anno è tornata ai livelli del 1997 in quanto a carico fiscale, salendo al quinto posto in coppia con la Francia tra i paesi più tartassati. Ogni 100 euro, 43,2 vanno allo Stato. Non siamo i primi, è vero, ma davanti ci sono paesi quali Danimarca, Svezia, Austria e finanche Belgio, dove i servizi pagati con le tasse funzionano bene, dove il welfare aiuta tutti, pure i giovani. Altri dati, pubblicati dalla Commissione Europea, rivelano che l'Italia è il paese dove il lavoro dipendente è il più tassato del continente. Nel 2008 ciascun lavoratore versava allo Stato 42,8 euro su 100 guadagnati. Fonti della Commissione ipotizzano che il primato europeo significhi, nei fatti, anche il record di tassazione mondiale per i lavoratori italiani. Le foto sul suo sito ufficiale sono ancora lì. Zakkai, ritratto nel giorno del matrimonio con la moglie, in un'altra immagine bacia la mano a Papa Wojtyla. Ora invece è qui che tenta di spiegare l'accaduto. Aiuto, mi hanno incastrato, volevo solo indagare su di loro. Così racconta qualche ora dal ricovero in piena notte in ospedale in stato confusionale dopo un festino a base di cocaina e sesso. Il consigliere PDL, 42 anni, racconta un trans che avrebbe partecipato al festino, si sarebbe affacciato al balcone della casa in zona San Giovanni urlando frasi sconnesse e improvvisando un comizio. Tanto che sul posto è intervenuta prima la polizia, poi gli uomini della guardia medica psichiatrica che hanno disposto il ricovero. Questa storia dimostra ancora una volta i drammatici effetti derivanti dall'uso della droga, commenta il sottosegretario con delega alle tossicodipendenze Giovanardi, che ribadisce la necessità di introdurre strumenti normativi che garantiscano l'elettorato sul non uso delle droghe da parte di chi è chiamato a ricoprire incarichi pubblici. Chiediamo alla magistratura di fare chiarezza, ha detto il sindaco di Roma Alemanno. È un bruttissimo episodio che ricorda quello di Marrazzo. Sulla disavventura di Zakkai meglio non infierire, invece le tasse che salgono anziché diminuire sembrano implacabilmente, cinicamente, un tassello di un mosaico poi di difficoltà, di oscillazioni della maggioranza che ruota attorno a Berlusconi. L'ottavo giorno. Dicevamo dei problemi che in questo momento affliggono la maggioranza e il governo. Su questo devo dire, qualche giorno fa ho ascoltato un'interessante trasmissione di Oscar Giannino qui a Radio 24 a 9 in punto, insomma proprio sullo stallo, sulla situazione di difficoltà nell'azione di governo. E su questa linea ho trovato interessante anche l'articolo su cui si è dibattuto molto di Galli della Loggia lunedì sul Corriere della Sera, che invocava un colpo d'ala al governo di fronte ad una serie di quelle che lui scrive essere promesse non mantenute, dalla riforma alla giustizia, le liberalizzazioni, il piano casa ancora da definire, posto poi i meriti del governo, soprattutto su come ha affrontato la crisi economica. Non c'è dubbio però che soprattutto in questi giorni ci sono svariati elementi di tensione all'interno della maggioranza, a cominciare dal caso Brancher, non ancora risolto, non si conoscono bene le competenze insomma di questo nuovo ministro, nel frattempo è ancora vacante, siamo arrivati a quasi due mesi, il ministero cruciale per le attività produttive, poi c'è tutta la querela attorno al legittimo impedimento, all'inizio invocato da Brancher, poi ci ha rinunciato anche sotto varie pressioni, non parliamo invece di manovra e disegno di legge sulle intercettazioni. Anzi, parliamo di intercettazioni perché il disegno di legge è stato messo in calendario alla Camera a fine luglio. Molti nel PDL vorrebbero chiudere in fretta la partita, non così invece Fini, che continua a fare dei distinguo e a lamentarsene. E giovedì è arrivato il duro affondo anche di Napolitano. Sentiamo su questo Stefano Totoro. Non nasconde l'amarezza per l'invito che aveva rivolto alla maggioranza e rimasto inascoltato, quello di aver dato la precedenza al DDL intercettazioni rispetto al dibattito sulla manovra finanziaria. È così che il Presidente della Repubblica Napolitano in visita a Malta interviene nel giorno delle mobilitazioni delle piazze italiane. Il Colle, sottolinea il Capo dello Stato, non interviene per suggerire modifiche, ma i punti critici sono chiari. Quei punti critici sono gli stessi a cui si riferiscono le preoccupazioni della Presidenza della Repubblica. Valuteremo obiettivamente se verranno apportate modifiche adeguate alla problematicità, alla criticità di quei punti. A stretto giro il presidente del Senato Schifani assicura che l'esame del disegno di legge sulle intercettazioni si farà in Senato dopo l'estate. Intanto nella maggioranza continua a consumarsi uno scontro interno quando il presidente della Camera Fini invita alla riflessione il ministro Sandro Bondi. Lo dicono i sindacati di polizia, te lo dice il procuratore generale antimafia. Ma vogliamo per un attimo fermarci e riflettere? Perché il valore della legalità, Sandro, è la precondizione persino per il federalismo. Si vedrà dai voti, risponde dall'opposizione il segretario del Partito Democratico Bersani, che invita Fini alla coerenza. Napolitano è rimasto inascoltato, aggiunge Bersani, ora si ritiri il disegno di legge. E mercoledì Giocaforza ha parlato di intercettazioni anche il garante della privacy Pizzetti. Sentiamo, riascoltiamo le sue parole in questo servizio di Laura Bettini. Non usa mezze parole il garante della privacy Francesco Pizzetti nell'esprimere il suo pensiero. Nel disegno di legge sulle intercettazioni dice: il punto di equilibrio tra libertà di stampa e tutela della riservatezza si sposta a favore della riservatezza e questo può giustificare che da molte parti si affermi che si pone in pericolo la libertà di stampa. Poi aggiunge: il risultato complessivo delle scelte fatte nel testo ora in discussione è quello di aver dato al Paese una sorta di regime della libertà di stampa a due velocità. Nel limitato ambito del disegno di legge, infatti, ogni violazione da parte della stampa relativa alle intercettazioni è sanzionata penalmente e la responsabilità è condivisa con l'editore. Per tutto il restante ambito nel quale si dispiega la libertà di informazione, tutto resta come prima. Quindi Pizzetti riafferma il diritto del cittadino alla trasparenza, nella pubblica amministrazione come negli stipendi dei dipendenti RAI, e ricorda l'attività dell'anno, i 600 provvedimenti presi, le 4.000 risposte date a reclami in materia, tra gli altri, di telefonia, credito, videosorveglianza e internet. E proprio sulla rete attira l'attenzione Pizzetti e dice: il futuro della privacy si gioca sul web. Procediamo per così dire a ritroso nella settimana, torniamo a lunedì e andiamo in Brasile perché mentre firmava contratti con il presidente Lula, anche Berlusconi, anche questo è inevitabile, è tornato a parlare di intercettazioni, in realtà ha parlato a 360 gradi, ha parlato di manovra, di giornali, insomma ne ha dette un po' a tutti e su tutto. Ecco il resoconto dell'inviato in Brasile del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. Il sonoro della registrazione non lascia spazio ad equivoci. La voce è di Berlusconi, appena sbarcato a San Paolo del Brasile. Rivedremo la manovra, dice, a chi gli ricorda che le regioni si stanno mobilitando contro i tagli. Sono passate neppure 24 ore da quando a Toronto, a fianco del ministro Giulio Tremonti, dopo il G20, il presidente del Consiglio parlava di sacrifici necessari per colpire sprechi non più accettabili. Ma l'apertura alle regioni arriva a Roma, al Ministero dell'Economia, dove non piace affatto. Il portavoce Paolo Bonaiuti è costretto a una ritirata strategica, smentisce l'apertura che solo ad incontrare le regioni, non a rivedere saldi che non si possono certo toccare. Alludendo probabilmente al prossimo sciopero della stampa contro la legge sulle intercettazioni, il Cavaliere propone invece uno sciopero degli italiani per insegnare ai giornali a non prendere in giro i loro lettori, perché aggiunge: ho letto in questi giorni resoconti che sono l'esatto contrario di quanto è avvenuto alla riunione del G20. Questi giornali in Italia oggi raccontano frottole, disinformano totalmente, danno una versione capovolta della realtà. Quanto al Brasile, Berlusconi parla del presidente Lula, che incontrerà oggi come di una persona con la quale ho stabilito subito un'ottima intesa e che ha rilanciato l'economia del suo paese. I due apriranno oggi il Business Council con 80 imprese italiane. Ci sono in vista accordi per 10 miliardi di euro, soprattutto per Finmeccanica, Fincantieri e Ferrovie dello Stato. La manovra dunque, altro terreno di scontro pesante soprattutto con le regioni, di giorno in giorno si aggiungono emendamenti su emendamenti, francamente è impossibile tenerne il conto, seguirli tutti. Mi sono però francamente molto preoccupato quando ho letto qualche giorno fa in un puntuale articolo di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera che addirittura sarebbero rispuntati dei condoni edilizi, insomma, da parte di 3 deputati del PDL della Campania, notizia che francamente si commenta da sola. Restiamo però alla generale contesa, alla generale disputa, confronto, scontro tra Stato, tra governo e regioni. Così ieri mattina ci racconta la situazione Maria Chiara Grandis. Mentre il ministro per le riforme Umberto Bossi promette che la finanziaria verrà aggiustata, ieri è stato un giorno di proteste contro la manovra del governo. Uniti nel ribadire il giudizio negativo, i presidenti delle regioni, dopo una seduta straordinaria, chiedono l'incontro con il premier Berlusconi e bocciano la proposta di tagli flessibili. Vanno suddivisi con equità fra tutti i livelli della Repubblica, dice il presidente della conferenza. Per Vasco Errani il testo va cambiato perché le proposte avanzate sono peggiorative e rendono impraticabile anche il federalismo fiscale. Su 4 miliardi le competenze relative alla Bassanini, trasporto pubblico locale, fondo delle imprese eccetera, valgono poco più di 3 miliardi. Se quelle risorse non ci sono più, come le ridistribuiamo? Contro i tagli hanno scioperato i sindacati di polizia, prefetti e toghe, in polemica quest'ultime con il vicepresidente del CSM, Nicola Mancino, che parla di reazione eccessiva. L'indipendenza, spiega, non dipende dallo stipendio. Stupito e rammaricato, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Luca Palamara, puntualizza che l'adesione ha superato l'80% e ricorda i motivi della protesta. Peggiorano comunque la situazione soprattutto dei magistrati più giovani, con tagli del 30% e che creano una situazione di diseguaglianza. Dal Partito Democratico Bersani torna a dire che la manovra non va. Una botta ai redditi medio-bassi, ai servizi e alla crescita. Abbiamo ancora qualche minuto prima della pausa e li voglio dedicare alla scena internazionale, perché non possiamo certo tralasciare quello che è successo nel fine settimana scorso in Canada, dove si è svolto il G20, costato se non sbaglio $1 miliardo, quindi non proprio noccioline, per in realtà raggiungere risultati piuttosto vacui, insomma, di fronte alla solita pletora di delegati, dichiarazioni, comunicati stampa, insomma, rimangono i dubbi sull'efficacia di questi vertici. Sentiamo comunque l'analisi firmata lunedì mattina da Mario Platero. Sono forse conciliabili politiche espansive con politiche restrittive? Sulla carta non lo sono, eppure è proprio quello che in qualche modo il G20 ha detto ieri. Il compromesso fra Washington, che chiedeva espansione, e Berlino, che chiedeva severità, è stato quello di dire: bene, puntiamo nel breve termine a sostenere la crescita e la ripresa del lavoro, perché senza di quello non si potrà costruire un bel nulla, e impegniamoci tutti invece subito dopo a procedere con drastiche misure di riduzione dei disavanzi pubblici, addirittura del 50% entro il 2013. Ecco, come l'America riesca a ridurre di circa $500 miliardi il suo disavanzo pubblico in così poco tempo resta un po' un mistero. I mercati temono nuove tasse, nuove riduzioni alle spese. No, in realtà Obama propone una soluzione alternativa. È possibile raggiungere gli obiettivi grazie al circolo virtuoso. Con la crescita aumenteranno le entrate dello Stato. E poi un avvertimento del presidente americano: l'America non sarà più il locomotore degli altri paesi, l'America non importerà più come faceva prima, facendo indebitare i suoi cittadini, ma anzi cercherà di competere sui mercati all'esportazione con tutta la la sua forza, un messaggio che suona come una sfida soprattutto all'Europa, che è così un po' arroccata su vecchie rigidità strutturali. E per chiudere questa nostra seconda parte dell'ottavo giorno, teniamo d'occhio le borse, che sono reduci da una settimana di affanni, di saliscendi. Insomma, la giornata simbolo forse è stata martedì, come racconta questa scheda, questo servizio di Anna Marino. Una giornata iniziata male, sulla scia del cattivo andamento dei mercati asiatici ed europei, con i listini dell'estremo oriente appesantiti dai segnali di rallentamento della ripresa cinese. È una giornata finita peggio, anche sull'onda di dati macroeconomici americani non confortanti, in testa la scivolata di 10 punti dell'indice di fiducia dei consumatori, con conseguente andamento negativo di Wall Street. Borse europee quindi al tappeto per le forti vendite sui titoli bancari. Milano maglia nera giù del 4,44%, Parigi in calo del 4%, Francoforte del 3,33% e Londra del 3,15%, Madrid addirittura giù del 5,45%. Ma a zavorrare l'Europa sono anche tornate in superficie le preoccupazioni legate al debito sovrano e alla situazione economica di paesi dell'Eurozona, sullo sfondo di un euro ancora debole. Inoltre si avvicina la scadenza di domani per un ripagamento di un maxi debito da 442 miliardi di euro alla BCE da parte di diverse banche europee. Secondo alcuni osservatori c'è il rischio che si verifichino problemi di liquidità. L'ottavo giorno. La settimana che si sta concludendo e che stiamo raccontando qui all'ottavo giorno è stata sicuramente molto importante, non so se entra nei libri di storia, forse no, comunque insomma è stata significativa per il federalismo fiscale, insomma quella che il Foglio tra l'altro giovedì in edicola ha definito la riforma dello Stato italiano più importante dai tempi di Cavour e dell'Unità Nazionale, quindi praticamente la riforma più importante di sempre, riforma che, aggiungo io, dovrebbe raddrizzare il legno storto del fisco. Questa è la definizione invece di Tremonti, un legno storto che dagli anni 70 in poi, da un lato, di fatto ha tolto a enti locali e regioni l'autonomia tributaria, il tutto mentre invece i poteri delle stesse regioni e degli enti locali sono aumentati via via, pensiamo insomma alla sanità e alle competenze urbanistiche. Quindi questo meccanismo ha di fatto creato una forbice sempre più larga tra lo Stato che, lo dico brutalmente, tira fuori i soldi e le regioni che le spendono senza quindi controllo e con tutto poi il meccanismo di sprechi e quant'altro. Al mio fianco mi ha raggiunto Dino Pesole, che prima della pausa ho definito Caronte in questo fiume tortuoso e limaccioso per certi versi del federalismo fiscale. Prima di tutto, brevemente, poi entreremo nel dettaglio. È davvero la riforma delle riforme, come con enfasi dice il Foglio, quella del federalismo fiscale? È una riforma molto importante, peraltro non è un optional questa riforma, è una riforma dovuta, perché ricordo che nel 2001 è stato rivisto il famoso titolo quinto della Costituzione, che appunto attribuisce, almeno a livello di costituzionale, di modifica costituzionale, dei poteri precisi in materia di autonomia impositiva alle regioni e agli enti locali. Quindi qua siamo al passaggio dell'attuazione dopo di questo principio. Sono voluti 9 anni, perché rimangono dei buchi da quel 2001, e probabilmente ce ne occorreranno forse non altri ma molti altri, perché tra l'altro ricordo che il dispositivo della legge delega che è stata approvata lo scorso anno, il 5 maggio del 2009, prevede 2 anni per il varo dei decreti legislativi e poi altri 4 anni di regime transitorio, quindi questo è quindi un processo, varo lunghissimo. Un processo molto lungo. Comunque, detto questo, certamente l'appuntamento decisivo e la grande attesa era appunto con le comunicazioni che il ministro dell'economia Tremonti, secondo appunto quello che prevede la legge delega, entro il 30 giugno, in effetti entro il 30 giugno il ministro Tremonti ha comunicato e trasmesso al Parlamento la famosa relazione sui cosiddetti costi o risparmi, dipende dai punti di vista, di tutto questo processo che appunto, come abbiamo visto, è un processo molto lungo. E allora veniamo a questa relazione di mercoledì. C'era naturalmente grande attesa, tu c'eri lì, non eri vicino a Tremonti, molti discorsi, molte cose dette, mancano numeri certi, adesso cercheremo di capire perché. Intanto riascoltiamo Alessandra Schepisi. Costerebbe di più non farlo e anzi farà risparmiare e molto, un concetto che il ministro dell'economia ribadisce più volte in conferenza stampa. Gli attesi numeri però ancora non li rivela, ma promette che arriveranno nei prossimi mesi. Troppe volte abbiamo sentito dire che il federalismo ha un costo. Il normale buonsenso ci dice che il costo c'è se non si fa il federalismo, se si lascia fuori controllo questa finanza pubblica. Tremonti annuncia poi l'introduzione della cedolare secca sugli affitti, mentre la tassa unica sugli immobili che i comuni potranno applicare non toccherà la prima casa, che resterà quindi esente da ogni imposta. Esulta il ministro delle riforme Bossi che, Berlusconi assente, ha presieduto il Consiglio dei Ministri. Un passo importante, dice, finalmente si apre la fase del federalismo municipale che porterà i comuni ad avere tributi propri per finanziare i servizi. La grande cerimonia del federalismo fiscale si chiude con la foto ricordo dei ministri Tremonti, Bossi, Calderoli e Fitto. Grande assente, Brancher, colui che dovrebbe avere proprio le deleghe all'attuazione del federalismo. Tremonti, interpellato, si limita a rispondere così. Ministro del federalismo e il ministro Bossi. Dino, su Brancher che non c'era faremo un'altra puntata, sì. Sorvoliamo, veniamo invece al federalismo fiscale. Io direi che se spieghiamo a chi ci ascolta la differenza tra spesa storica e costi standard, forse spieghiamo l'essenza del federalismo fiscale, almeno secondo la declinazione di Tremonti e soci. Il meccanismo della spesa storica è quello tuttora in vigore, vale a dire le regioni hanno tendenzialmente sulla carta una loro autonomia di spesa e di uscita, ma in realtà poi se c'è qualche sforamento nei propri bilanci è lo Stato che ripiana a piedi lista. Questo è il meccanismo attuale, che è un meccanismo che obiettivamente in uno Stato che ha un debito pubblico come quello che ha l'Italia non è più fattibile. E quindi da questo punto di vista la svolta verso i costi standard è una svolta che almeno sulla carta si annuncia rivoluzionaria per questo paese. Cosa vuol dire costi standard? Vuol dire stabilire dei costi per delle prestazioni che siano uguali nel Veneto e in Calabria. Cosa che per esempio adesso non avviene, insomma, no. Gli esempi nella sanità sono infiniti, dalle lastre, esatto, alle siringhe e via dicendo. Esattamente, la sanità è il punto nodale, perché come ne sappiamo lo scorso anno agli inizi di dicembre è stato siglato tra il governo e le regioni il cosiddetto patto sulla salute, che mobilita risorse per oltre 100 miliardi di euro. Questo è l'ammontare di quello che si spende per la sanità in questo paese. A fronte di questo però, se le regioni sforano, a quel punto scattano le tagliole, le addizionali, e quindi qui bisogna evitare che alla fine di tutto questo percorso l'effetto negativo si scarichi sui cittadini. E qua interviene il concetto, che secondo me è molto incoraggiante e positivo, della responsabilità. Cioè effettivamente in capo alle regioni e agli enti locali, da adesso in poi, quando questo percorso, questo convoglio arriverà definito, certo, a destinazione, effettivamente dovrebbe essere così. Cioè le regioni sono responsabili direttamente delle loro entrate e delle loro uscite. Se sforano se la vedono loro, non possono più pretendere che lo Stato sia lì pronto a ripianare a piedi lista. E comunque possiamo dire che a livello di regioni verrà applicato il meccanismo degli studi di settore per le singole professioni. Sì, esatto, perché con delle tabelle, insomma, di massima oltre le quali si prevede di utilizzare la SOSE, che è questa società mista pubblico-privato che già opera per quel che riguarda la messa a punto degli studi di settore, che sono però altra cosa, cioè sono quegli indicatori che servono a stabilire gli indici di ricavi delle singole imprese, soprattutto piccole e medie imprese, e poi determinano il pagamento delle imposte. Ecco, fin qui siamo alle belle parole, insomma, qualcuno ha parlato di meravigliosa utopia che si spera naturalmente si realizzi anche per sanare poi quella voragine che è il debito pubblico italiano. Però, come abbiamo ricordato, non sono stati dati numeri precisi, probabilmente Tremonti non poteva darli, ma a questo punto come dobbiamo prendere poi questa parte che non c'è della relazione, peraltro corposa di più di 100 pagine se non sbaglio? Dobbiamo prenderla nel senso che per ora sospendiamo il giudizio, perché lo stesso Tremonti ha detto che tra luglio e settembre arriveranno finalmente i decreti attuativi sulla parte veramente nodale di tutto questo processo, che è appunto la definizione dei costi standard. Nei giorni scorsi sono state diffuse a livello giornalistico delle cifre. Ricordo, ad esempio, si è parlato di un possibile risparmio attorno ai 10 miliardi. Poi a un certo punto questi 10 miliardi sono scesi a 6. Il ministro Tremonti a richiesta non ha voluto dare risposte. Ha detto: lo saprete tra luglio e settembre, quando presenteremo i relativi decreti legislativi. Quindi a questo punto ovviamente c'è molto interesse, perché obiettivamente la riforma sulla carta è di grandissima importanza. Tra l'altro osservo che le stesse regioni sono assolutamente favorevoli al federalismo fiscale, e anche i comuni, perché in questo percorso poi ai comuni, come abbiamo sentito dal servizio, verrà attribuita un'imposta, poi ci sarà probabilmente la cedolare secca sugli affitti, insomma si... Quindi a tutti piace l'idea di tenere le tasse più vicini possibili, no, ai cittadini che poi le vedono sul campo, insomma, sì, del loro territorio. Io credo che sulla carta questa sia una riforma molto importante, però occorre vigilare, perché non è poi detto che automaticamente quando si trasferiscono sia beni che funzioni dallo Stato centrale alla periferia, questo equivalga a efficienza. Ovviamente va visto sul campo. Non c'è dubbio che è un punto interrogativo colossale, non per fare il leghista, ma insomma il Sud Italia, sul quale tra l'altro ieri le regioni del Sud, Tremonti ieri ha polemizzato ancora una volta piuttosto pesantemente. Sì, lo ha detto lì alla Coldiretti e ha ricordato poi lo stesso concetto che ha espresso il 30 giugno in conferenza stampa. Peraltro il 30 giugno Tremonti ricordò come ci sono 40 miliardi di stanziamenti che provengono dai fondi comunitari, che come sappiamo sono quei fondi che sono destinati alle aree diciamo meno sviluppate, ecco, questa è la parola più corretta, che per gran parte non sono spese. Allora Dino, non so se rientra nel federalismo, anzi direi di no, riguarda più il tema complessivo della manovra di cui abbiamo già parlato, però insomma c'è un argomento super gettonato, forse anche molto impopolare in questo tempo, in questi giorni, che è quello dell'aumento annunciato delle tariffe autostradali, anzi sono già entrate in vigore dal 1 luglio alcune, e soprattutto l'introduzione di nuovi pedaggi in zone in cui non ci sono, come il mitologico grande raccordo anulare. Chi abita o comunque per lavoro si trova a Roma sa di cosa sto parlando. Ascoltiamo questo servizio di mercoledì mattina di Roberta Pellegatta e poi ragioniamo al volo con Dino Pesole. Si potrebbe giustificare il pagamento del pedaggio che con ogni probabilità verrà introdotto anche sulla Salerno-Reggio Calabria. La manovra economica all'esame della Commissione Bilancio del Senato prevede infatti rincari delle tariffe autostradali e introduzione di pedaggi su tratti in questo momento gratuiti. La prima stangata dovrebbe arrivare il 1 luglio, guarda caso, proprio in concomitanza con le partenze per le vacanze estive. Riguarderà tutte le reti autostradali private con aumenti medi che andranno da un minimo dell'1,52% fino ad arrivare a punte del 5%. In realtà ad aumentare saranno i canoni dovuti all'ANAS dalle concessionarie. Cosa c'entrano gli automobilisti, qualcuno penserà? C'entrano perché, grazie ad una clausola contenuta nella convenzione del 2008 tra ANAS, PAI e Autostrade per l'Italia, le concessionarie sono autorizzate a rivalersi sugli utenti aumentando i pedaggi. L'altra operazione, che potrebbe scattare sempre dal 1 di luglio, riguarda l'introduzione del pagamento su alcune tratte attualmente gratuite. Si tratta di 11 autostrade e 11 raccordi per un totale di 1.270 chilometri. Tra questi il grande raccordo anulare di Roma, il raccordo Torino-Aeroporto di Caselle, l'autostrada Roma-Fiumicino, la Palermo-Catania e appunto la Salerno-Reggio Calabria. Allora, caro Dino, autostrade e estate non sono parole che vanno d'accordo, ci si accorge sempre dei problemi delle autostrade quando arrivano le vacanze. Detto di Alemanno che è pronto ad abbattere eventuali caselli che dovessero essere costruiti nell'accordo anulare, pochi secondi per la tua battuta finale su questa questione. Ma io credo che anche questa norma vada interpretata con un minimo di discrezione e intelligenza. Cioè, io capisco l'aumento, la revisione dei canoni per ragioni di cassa, però obiettivamente questa previsione, cioè che si possano pagare dei tratti del raccordo anulare anche al di là del fatto che uno poi transiti o meno su reti autostradali, questo è obiettivamente un problema. Un po' vessatorio, potrebbe dire. Un po' vessatorio, e infatti non a caso c'è stata la rivolta anche di tutti quegli esercenti che percorrono brevi tratti di autostrada e poi fanno il raccordo. Allora a questo punto forse si potrebbe Ma lì se volendo si possono trovare delle soluzioni, ecco, intermedie, degli abbonamenti, che ne so, o abbonamenti, oppure adesso in sede di conversione del decreto, quando la settimana prossima arriverà in aula, forse si può specificare meglio che in questi casi l'aumento non è dovuto. Vedremo. Grazie a Dino Pesole. L'ottavo giorno. Nella puntata di oggi non abbiamo ancora parlato invece di una notizia centrale, fondamentale di questi giorni, che oscilla tra cronaca giudiziaria e analisi politica. È inevitabile di fronte alla natura speciale e particolare del personaggio coinvolto, ovvero Marcello Dell'Utri, perché martedì, dopo 5 giorni lunghissimi, eterni, infiniti di camera di consiglio, arriva la sentenza di appello sull'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa che pende sul capo di Dell'Utri. La formula è un po' bizantina, me ne rendo conto, ma questa è la dicitura esatta dell'accusa nei suoi confronti. Sentiamo, prima di ragionare con un ospite, dal GR delle 19 di martedì, il resoconto di Maria Luisa Pezzali. Cercherò il procuratore Gatto e farò le mie condoglianze. Così Marcello Dell'Utri in conferenza stampa a Milano dopo la sentenza d'appello che lo ha condannato a 7 anni di reclusione, una sentenza che il senatore definisce pilatesca. Da una parte ha dato un contentino alla procura della Repubblica, cioè all'accusa, e dall'altra ha dato anche una grossa soddisfazione anche all'imputato. Aver escluso tutto ciò che riguarda le ipotesi dal 92 in poi, tutta quella macchinazione assurda e demenziale preparata artatamente, aggiunge Dell'Utri, è un fatto importante. Si dice stupito del fatto che il collegio non abbia avuto coraggio fino in fondo, aggiunge, sottolineando: io la mia pena l'ho già scontata. Ma confida nel ricorso in Cassazione. Fuori da Palermo, almeno un giudice sgombro da pregiudizi si troverà, conclude. Intanto mi ha raggiunto in collegamento telefonico da Palermo Nino Amadore, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno Nino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Nino, io con te vorrei partire da un fatto, perché insomma in Italia nulla è più interpretabile di una sentenza dei giudici, e così in questi giorni, proprio nelle ore a caldo dopo la sentenza, abbiamo assistito a quello che può sembrare, anzi è un paradosso, ovvero il procuratore generale sembrava più triste di Dell'Utri, che in fondo è quello condannato a 7 anni, che non sono pochi. Che dici di questo, Nino? Io dico che la sentenza mi pare chiara. Dell'Utri non è stato assolto, è stato condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Il procuratore Gatto sì, aveva anche un po' di ragione ad essere così un po' abbacchiato, un po', diciamo così. Certo, perché sostanzialmente è lui che esce un po' sconfitto da questo processo, cioè dal processo d'appello al senatore Dell'Utri, perché lui aveva molto puntato sulla fase politica, cioè su tutto ciò che è successo dopo il 92, sul contributo che Dell'Utri aveva dato e la mafia avevano dato alla nascita di Forza Italia, e quindi sulla nostra, lui aveva invitato i magistrati, i giudici a salire il famoso scalino che potesse portarci alla verità storica su quello che è accaduto in quel tempo. Ha chiesto la testimonianza di Spatuzza, l'ha ottenuta, e poi noi abbiamo visto quello che poi è successo. Non ha ottenuto la testimonianza di Massimo Ciancimino, il figlio di Don Vito, del sindaco mafioso di Palermo, che comunque dice di avere delle cose importanti da dire su questi temi. E intanto noi sappiamo per certo, in questo momento, in attesa della Cassazione, che come sapete interviene sull'aspetto formale e procedurale dei processi, non sul merito, noi sappiamo che il senatore Marcello Dell'Utri fino al 92, cioè dagli anni 70 quando è tornato a Milano al 92, è stato il tramite tra la mafia e il mondo finanziario e politico milanese. Finanziario milanese significa in quel momento Silvio Berlusconi, che oggi è presidente del Consiglio. Invece la sentenza dice che dal 92 in avanti non ci sono prove per condannare su questo Dell'Utri, e quindi per dimostrare che c'è un rapporto, diciamo così, di causa effetto tra la discesa in campo di Berlusconi, l'avvento di Forza Italia e l'eventuale intervento della mafia. Però questo creare un prima e un dopo, questo creare un discrimine, naturalmente ha un peso fondamentale, non tanto per Dell'Utri, perché di fatto la sua posizione giuridica rimane pesante, deve comunque affrontare una Cassazione, ma sicuramente alleggerisce la situazione di Forza Italia, di tutto il centrodestra e direttamente di Berlusconi. Io su questo vorrei un tuo parere, Nino, su quanto ha scritto invece mercoledì sulla stampa Francesco Lalicata, perché si è spinto a fare due considerazioni. Da un lato scrive che questa distinzione tra prima e dopo il 92 dimostra il contrasto forte all'interno del collegio giudicante, d'altra parte 5 giorni di Camera di Consiglio sono tantissimi, l'abbiamo detto anche prima, ma soprattutto separa il destino poi di quello che lui definisce il pesce piccolo, quindi sacrificabile, ovvero Dell'Utri, e il pesce più grande, ovvero Berlusconi, quindi non è una cosa da poco. Condividi questo ragionamento? Il primo primo ragionamento tiene il secondo, nel senso che le difficoltà e le discussioni devono essere state realmente molto, molto profonde. Sapete che c'era stata una polemica sulla posizione di uno dei due dei magistrati del giudicante, in particolare il presidente, a cui gli si contestava l'essere il padre di un alto dirigente del comune di Palermo, in questo momento governato da un sindaco che viene da Forza Italia, e quindi diciamo si adombravano delle cose sul presidente. L'altro, a proposito di Barresi, Ciancimino ha raccontato che frequentava casa sua, era amico del fratello Giovanni e quindi frequentava Don Vito, e quindi diciamo culturalmente io diciamo su questo non intendo entrare, ma sicuramente la discussione in 5 giorni è stata veramente lunga. Ma una cosa voglio dire, sì, in qualche modo viene separata la responsabilità, però io continuo a pensare che non si può confondere un pezzo con il tutto. Questo è un processo, cioè è il processo a Marcello Dell'Utri e a Cinà che è morto, non è il tutto. Il tutto semmai è quello che può venire da ora in poi. Io diciamo ho parlato anche con l'avvocato di Dell'Utri, il quale dice ora che cosa succede, perché questo è il grande tema, cioè quello che le inchieste in corso, non dimentichiamo che se Spatuzza non è stato creduto in questo procedimento, è creduto ed è ritenuto un teste affidabile in altri procedimenti, cioè in altre inchieste a Caltanissetta, a Palermo, a Firenze e a Milano, quindi c'è un quadro che sta andando avanti. Poi c'è Ciancimino, non è stato ammesso, la sua testimonianza non è stata ammessa in questo procedimento, però Ciancimino continua a raccontare cose che riguardano anche il 92, anche i collegamenti tra la mafia e la politica. Nino, poi, siccome siamo in chiusura, mi dici al volo invece che cosa pensi di quello che ha detto praticamente il giorno dopo la sentenza Pisanu, l'ex ministro degli interni, che invece ha detto di insistere su questo discorso della trattativa tra Stato e mafia, poi è arrivato Grasso un po' a ridimensionarlo, però anche a dire no, cerchiamo le prove di quanto ha detto Pisanu. La relazione di Pisanu, oltre diciamo a rivelare l'inchiesta sull'uomo dei servizi segreti, su questo Narracci, che è una figura di cui si sapeva, però ora è indagato a Caltanissetta, non fa altro che certificare quello che in qualche modo abbiamo detto in quest'ultimo anno e mezzo, cioè quel rapporto, quel contatto tra Stato e mafia in qualche modo ci fu. Deve esserci stato, a che livello bisognerà capirlo, con quali protezioni bisognerà ancora capirlo, però quel contatto ci fu e sicuramente gli attentati, come lo stesso Grasso ha detto qualche tempo fa, sono serviti a dare la scossa finale per consentire la nascita, un nuovo riposizionamento della politica, che si chiami Forza Italia o si chiami in un altro modo, questo saranno i giudici poi a stabilirlo. Grazie a Nino Amadore, come sempre ogni volta che ci sentiamo non riusciamo mai a mettere una parola a fine, ma ci mancherebbe altro a queste questioni, anzi apriamo altre suggestive parentesi. Ringrazio ancora Nino Amadore del Sole 24 Ore, siamo in conclusione di una puntata molto affollata che purtroppo non ha potuto raccontare tutto quello che è successo in questi giorni, dalla morte assurda di Taricone, non abbiamo speso una parola sui mondiali di calcio, su Prandelli, nuovo CT della Nazionale, notizie interessanti anche dagli Stati Uniti dove sono tornate storie di spie con l'ex Unione Sovietica, con la Russia, e poi chiudo citando l'uscita di scena dopo oltre 50 anni di gloriosa, indimenticabile carriera di Larry King, però nessuno è uscito dalla scontatissima espressione appendere le bretelle al chiodo. Abbiamo finito, ottavo giorno è Radio24.it, ringrazio Alessandro Chiappini in regia, vi do appuntamento a sabato prossimo dopo le 9, come sempre tutta la settimana siamo su podcast sul nostro sito radio24.it.